Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, seconda tranche, seconda edizione della trasmissione Restiamo Animali, nella sua versione originaria, ovvero domenicale e della durata di mezz'ora. In realtà, come avrete notato, siamo restati insieme a voi tutta l'estate, con un'edizione mattutina ridotta che andava in onda giovedì mattina, ma adesso siamo tornate alle vecchie buone abitudini, andare in onda per mezz'ora in una versione lunga che ci consente di approfondire le nostre consuete rubriche e di aggiungerne di nuove. E la musica di questa puntata è tratta dalla compilation This is the Alf. Questo è l'Animal Liberation Front, artisti a favore degli attivisti di prima linea che si battono dentro e fuori gli steccati della legalità per la liberazione di animali innocenti e senza voce. In studio oggi la nuova formazione della redazione: Camilla Lattanzi, Lorenzo Guadagnucci, Elisa Moretti. Ma oltre a noi, redattori ormai consolidati, sorpresa, ci sono anche delle new entries. Con la seconda edizione di Restiamo Animali abbiamo una nuova collaboratrice. Ciao Sara. Ciao. Parlaci un po' di te. Avendo una grande passione per la cucina, ho iniziato a sperimentare e andavo a cercare le ricette su internet, su vari blog, finché non mi è venuto in mente di aprirne uno io, in cui sperimento piatti vegani e poi pubblico le ricette su blog. Il titolo del tuo blog è molto particolare, Straight Edge Fam. Cosa vuol dire Straight Edge? Il titolo è un'idea di mio marito, che è lui il vero Straight Edge della famiglia. Straight Edge è un movimento, soprattutto una corrente musicale, ecco, poi è diventato un movimento come lo è il punk o il metal, nato negli anni 80 negli Stati Uniti per contrapporsi appunto al punk, che era basato sullo sballo essenzialmente, quindi tanta droga, tanto alcol. Lo straight edge è l'opposto, è la nessuna dipendenza, quindi il rifiuto di ogni forma di droghe, di alcol. Da lì tanti straight edge poi diventano anche vegani, era sempre una scelta di etica, e quindi da lì è diventato straight edge fan, cioè la famiglia straight edge, che è quello un po' che cerchiamo di essere io e mio marito. Sara ci accompagnerà con le sue ricette durante tutta questa stagione. Quale sarà la prima ricetta che ci presenti? La prima ricetta è una torta al cioccolato e zucchine. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Oggi vorrei condividere con voi una delle mie torte preferite, la torta zucchine cioccolato. Allora, non lasciatevi ingannare dalla presenza di questo insolito ingrediente. Vi assicuro che è una torta golosissima, dal sapore intenso di cioccolata e soprattutto non sa assolutamente di zucchina. Io l'ho fatta assaggiare a diverse persone, compreso mio nipote che odia le verdure e la frutta. Tutti l'hanno apprezzata e nessuno ha capito quale fosse questo ingrediente misterioso. Allora, gli ingredienti effettivi sono una tazza e mezzo di farina, una tazza di zucchero di canna, 3 cucchiai abbondanti di cacao amaro, 3 cucchiai di fecola, una bustina di lievito per dolci, un terzo di tazza di olio di semi, mezza tazza d'acqua, una zucchina media o due piccoline, un cucchiaino di cannella, un cucchiaino di caffè d'orzo solubile e qualche goccia di essenza di mandorle, se l'avete in casa, altrimenti viene benissimo lo stesso. Apro solo una piccola parentesi. Per me è scontato che gli ingredienti debbano essere tutti biologici, o almeno il più possibile. Allora, la preparazione è semplicissima. Grattugiate una zucchina con una normale grattugia, per intenderci quella che usate per le carote. Versate in una ciotola tutti gli ingredienti secchi, farina, zucchero, cacao, fecola, lievito, caffè, cannella e mescolateli. Aggiungete l'olio, l'acqua, l'essenza di mandorla se l'avete e la zucchina grattugiata. Amalgamate bene gli ingredienti fino ad ottenere un composto bello omogeneo e versatelo in una tortiera rivestita di carta da forno. Cuocete la torta in forno caldo a 180 gradi per circa 35-40 minuti. Attendete che la torta si raffreddi completamente ed estraetela dallo stampo. A piacere potete guarnirla con un po' di zucchero a velo. Il risultato sarà una torta soffice, un po' umida al suo interno e super cioccolatosa. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao! Animal House. Notizie, interviste, attualità. Ho conosciuto Valentina Reggioli attraverso il Gas Vegando, il primo gas interamente vegano della città di Firenze. Valentina Reggioli è una tenace, energica, infaticabile attivista. Ha marciato in tutte le manifestazioni animaliste e continuerà a farlo come inviata speciale della trasmissione Restiamo Animali. Sono laureata in fisica, sono specializzando in fisica medica, non so se questa sarà la mia strada, mi piacerebbe fare qualcosa che abbia a che fare con le mie attività di attivista, quindi vorrei avere a che fare appunto con gli animali. Sono la compagna bipede di tre quadrupedi, tre cani, due dei quali sono stati salvati dal canile, un canile nel quale faccio volontariato da molti anni. Il prestigioso canile del termine che abbiamo visitato è presentato agli ascoltatori, guidati anche da Valentina. E che si sta piano piano svuotando anche grazie a me. Quanti ne hai appioppati? Dunque, alla mia famiglia 4. In generale, non lo so, diverse decine direi. Aiuto! Sono diventata una seguace della teoria del branco. A questo punto un cane solo non può bastare, bisogna almeno averne due. Sono stata prima all'allevamento ai Morini, poi sono stata all'allevamento Green Hill. Piano piano li ho visti chiudere con molta soddisfazione. Spero che in futuro potrò anche gioire della chiusura di Arlan. Vorrei che si capisse bene che l'animale da difendere non è solo il cane cucciolo, carino, di razza eccetera, ma bisogna andare verso la liberazione di tutti gli animali, quindi anche nel caso di Arlan è necessaria una mobilitazione tale e quale, se non di più, quella che si è avuta appunto per Green Hill. E quanto Valentina prometta bene potrete valutarlo voi stessi ascoltando il servizio che ha realizzato alla recente manifestazione del 29 settembre a Udine, quando fin dal mattino, con grande determinazione e spigliatezza, ha messo in croce un intero pullman per raccogliere testimonianze che, come sentirete, esprimono una commovente spontaneità. Restiamo animali! Aspetta, ridiciamolo. 1, 2, 3, restiamo animali! Siamo sul pullman che da Firenze va verso Udine, siamo più o meno all'altezza di Bologna. All'interno, diciamo, del bus stracolmo, quindi siamo riusciti a riempire un bus, anzi molte persone che erano in lista d'attesa sono dovute venire indipendentemente. Ho trovato un medico di base a cui vorrei chiedere perché viene ad una delle tante manifestazioni contro la vivisezione e cosa si sente di dire, insomma, al riguardo. Grazie. Intanto ci sono i motivi etici, prima di tutto, che mi spingono a venire a queste manifestazioni. Cioè, l'animale è un essere senziente, qualsiasi esso sia, e quindi questa è la prima ragione personale. Dal punto di vista professionale posso dire che la vivisezione è qualcosa di, oltre che aberrante dal punto di vista etico, è anacronistica e dannosa per la specie umana, perché farmaci che hanno superato la fase della sperimentazione sugli animali vengono poi, una volta messi in commercio, ritirati magari dopo 6 mesi, un anno, per gli effetti collaterali anche molto gravi, scompenso cardiaco, insufficienza epatica acuta, effetti che si rivelano una volta che il farmaco viene utilizzato sull'uomo. Da dove venite? Udine. Tutti quanti da Udine? Noi facciamo parte del rifugio del cane e del gatto gestito dall'EMPA, dall'Ente Nazionale Protezione Animali di Udine, la sezione di Udine. Grazie. Da dove venite? Da Roma. A che ora siete partiti stamattina? 6 e qualcosa. E che impressione avete? Siete fra gli ultimi ad arrivare? Beh, insomma, l'impressione è sempre bella, perché trovare altra gente come noi che viene da altre parti d'Italia, mossa dagli stessi principi, è una bella impressione. Cosa vi ha fatto alzare stamattina alle 5:30, immagino, anche prima? Beh, il fatto di combattere insieme per i diritti degli animali, soprattutto di queste categorie che non hanno voce per potersi difendere. Una cosa per noi molto importante, che sentiamo molto, abbiamo a cuore questa condizione così di schiavitù. Grazie mille, ciao, buona manifestazione. Ciao! mi dite da dove venite? Da Cagliari. Quando siete partiti, a che ora? Stamattina alle 8. Con cosa siete venuti? Con l'aereo. Quindi è una cosa impegnativa. Sì, non è la prima che facciamo, siamo andati anche a Roma il 16 giugno. Noi siamo, ci chiamiamo Cani Sciolti Sardegna. Tutto a spese nostre. E questo è importante da dire. Certo, nessuno ci sovvenziona. Grazie mille per essere qui. All'interno del corteo incontriamo anche Rebecca, una canina che è venuta da Green Hill. Parlo con il suo compagno Mano, che ci racconta un po' la sua storia brevemente. Rebecca è uscita a fine luglio e in una situazione molto critica, non stava bene di salute, ha ancora tutt'oggi problemi e quasi giornalmente siamo dal veterinario, dove ha riscontrato intossicazione da test tossicologici, e così come tutti gli altri cani che sono all'interno. Io sono stato uno di quelli che ho anche affidato di cani, sono quasi tutti malati, comunque con dei virus intestinali, cosa che non dovrebbero essere, visto che doveva essere un allevamento sterile. E comunque sì, adesso abbiamo intentato anche delle cause per in modo da chiudere definitivamente questo lager. Capito. Sono bravi, anche se sono cani comunque più difficili del solito, sono cani che hanno bisogno di molta assistenza. Quando vi dicono se non ci fossero gli animali dovremmo sperimentare sull'uomo, è una cazzata, è un qualcosa di antigiuridico, perché la legge impone la sperimentazione sull'uomo, e ancora più dipendente da quello che sono. Siamo con Anna Maria Manzoni, psicologa animalista ben nota, con la quale vogliamo affrontare un argomento che ha scosso l'opinione pubblica nelle ultime settimane. È il caso di Alexandra, la giraffa che a Imola è scappata da un circo, ha girato per la città, poi è stata fermata dai veterinari della ASL con un anestetico, dopodiché nella giornata stessa è morta. Ecco, questo episodio ha turbato, ha suscitato commozione. Con Anna Maria Manzoni vogliamo però affrontare il tema appunto della nostra relazione con gli animali che sono rinchiusi ed utilizzati nei circhi. Che tipo di relazione abbiamo con loro? Perché suscita commozione un episodio come questo? Dunque, partirei dal fatto che un episodio come questo suscita commozione per tanti motivi. Si tratta di un piccolo giraffotto, un cucciolone, il quale è stato anche dato un nome, Alexandre, e sappiamo bene come quando si scende dalla specie piuttosto che dalla razza al singolo individuo cambiano le cose. Cioè, se parlare di giraffe in generale non ci commuove, qualcosa che è lontano da noi, parlare della giraffa Alexandra ci fa sentire questo animale molto più vicino. È un animale che è stato descritto come alla ricerca della libertà, perché così è stato. Lui è scappato dal circo in cui era recluso e è scappato disperatamente, possiamo immaginare la sua angoscia, la sua ansia, il suo anelito di libertà, la fine che gli è stata fatta fare, per quanto volontariamente, comunque stava un po' scritto nell'ordine delle cose, ce lo rende veramente un animale estremamente vicino, estremamente umanizzato, ci sembra di conoscerlo, ci dispiace per lui. Ecco, questo è diventato un simbolo e forse è bene che sia così, perché ha risvegliato, è andato a toccare le coscienze e ha risvegliato le coscienze intorpidite di tante persone che il circo ce l'avevano comunque lì a pochi passi da casa, quello come tutti gli altri circhi che ci sono in circolazione in Italia e negli altri posti del mondo, dei quali invece sembra che molto poco ci importi, nel senso che le cose da cui Alexandre scappava sono le stesse a cui tutti gli altri animali sono assoggettati. Vale a dire, si tratta di animali che vengono da lontano, che dovrebbero vivere in libertà in zone molto lontane da qui anche, dovrebbero stare con i loro simili, godere della loro famiglia e dei loro amici, perché sappiamo che tutti gli animali hanno delle regole sociali e hanno dei legami di solidarietà. Sono invece costretti in gabbie anguste, vengono istruiti a fare cose per cui la loro specie non li rende assolutamente idonee, e per fare queste cose vengono usati dei mezzi coercitivi terribili, viene usata la frusta, gli elefanti vengono ridotti all'obbedienza con l'uso di piastre roventi piuttosto che di uncini, vengono costretti a sopportare fame e sete. Insomma, si tratta di tirocini che sono assolutamente insopportabili. E le persone che vanno al circo e che ci portano i bambini e tutti noi facciamo finta di niente, come se ci fosse una forma di anestetizzazione rispetto a questo problema e come se le tende del circo fossero sufficienti a nascondere e dalla nostra vista e anche dalla nostra mente e dai nostri cuori tutte le infamie che vengono invece perpetrate lì sotto. In fondo quello che succede nei circhi è un'espressione della prepotenza dell'uomo sulle altre specie, sulla specie animale di qualunque genere essa sia, e questo stesso tipo di predominio, di prepotenza, un rapporto di assoggettamento è in fondo quello a cui assistiamo in tantissime altre situazioni comunque legali che vedono gli animali assoggettati alla nostra volontà. Anna Maria Manzoni, una delle proposte che sono in campo ovviamente è quella del vietare l'uso di animali all'interno dei circhi, però c'è anche un altro aspetto forse da considerare, cioè l'aspetto educativo. Molto spesso le famiglie portano i bambini al circo come forma di divertimento, alle volte qualcuno pensa anche di educazione, forse invece dovremmo ribaltare questo concetto e pensare alla diseducazione che implica il andare ad osservare degli animali che vivono in condizioni di costrizione e di estrema sofferenza. Sì, assolutamente sì. Voglio citare un documento scritto da me alcuni anni fa e sottoscritto da oltre 600 colleghi psicologi, in cui affermavo proprio quello che lei va dicendo, vale a dire il fatto che ci sono situazioni che abusano degli animali e sono i circhi, gli zoo, le sagre con gli animali, che vengono spacciati come momenti di divertimento e momenti anche educativi per i bambini che così si dice si avvicinano al mondo degli animali. In realtà, si dice in quel documento, bisogna cominciare a considerare tutte queste situazioni come fortemente antieducative e antipedagogiche, per un motivo molto semplice, che è questo. Gli animali hanno delle modalità specifiche della loro specie per mostrare emozioni. Gli animali, noi lo sappiamo bene rispetto agli animali che conosciamo di più, cani, gatti e altri, però possiamo ampliare il discorso a tutti gli altri, mandano dei segnali che ci dicono quando sono contenti e ci dicono anche quando soffrono, quando stanno male. Ora, tutte queste situazioni in cui ci sono degli animali che sono in gabbia, che sono imprigionati, che vengono sottoposti a degli esercizi che per loro sono intollerabili, mandano dei segnali di sofferenza. Ora, gli adulti che portano i bambini a divertirsi davanti a degli animali che stanno male, stanno conducendo i loro figli, i loro bambini, proprio lungo una strada che è quella dell'antiempatia, cioè non insegnano loro a decodificare i messaggi che provengono dagli altri, anche se gli altri sono animali non umani, e anzi li spingono verso strade opposte che sono quelle invece del divertirsi davanti alla loro sofferenza. Ora, è evidente che si tratta di un tirocinio all'anti-empatia e io credo che il nucleo fondamentale di ogni tipo di educazione deve essere l'educazione al rispetto per l'altro. Se questo manca totalmente, come nel caso di queste manifestazioni, ripeto, circhi, zoo, sagre con uso animali, ovviamente si sta facendo un errore pedagogico veramente grande. Grazie ad Anna Maria Manzoni, che ricordiamo autrice di due libri importanti, ben conosciuti nel mondo animalista, Noi abbiamo un sogno, edito da Bompiani, e In direzione contraria, edito da Sonda. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Substitutes for human love. Per la rubrica Visti da vicino di questa settimana vi presentiamo La collina dei conigli di Via Tiberio Imperatore all'altezza del Civico 15 a Roma. Girovagando nella città eterna mi sono infatti imbattuta in una strana riserva, un angolo selvaggio in mezzo ai palazzoni, dove i conigli vengono coccolati dagli abitanti della zona. uno dei quali, Claudio, mi fa da cicerone e io mi cimento nella traduzione simultanea dal romanesco all'italiano. Sullo sfondo sentirete il suono artificiale di campane ecclesiastiche digitali. Mi trovo a Roma, in via Tiberio Imperatore. Via Tiberio Imperatore, dove... Diciamo per regolarsi qui alla 3. Alla 3 questa dei cellulari della telefoneria. Della telefonia. E un po' più avanti c'è sta l'ex Fiera di Roma, vicino alla Garbatella, diciamo. Zona Garbatella, vicino alla ex Fiera di Roma. Siamo a San Paolo, a Basilica San Paolo. Due passi dalla Basilica di San Paolo. E che cosa succede in questo angolo di giardino, un angolo di parco? Cosa c'è qui? Sì, un giardino, però vabbè, lì sono case private. E questo è uno spazio... Questo è uno spazio verde che ci hanno fatto, i conigli. E veniamo a portargli da mangiare un po' tutti. Lei abita qui vicino? Sì, vicino. E quando è che vi siete resi conto che qui cominciavano a esserci dei conigli? Perché da sopra l'hanno portati giù, quindi da qualche mese. Però sono tanti. Sono tanti, sopra saranno almeno 50 più. Forse bisognerebbe sterilizzarli, evitare che diventino troppi? Vediamo se decidono, perché qui c'è anche chi viene del comune, anche dei parecchi della polizia municipale che vengono. Quindi è sotto controllo? Sì, sì. Controllato, apposta ci hanno messo quel cancello perché prima potevano uscire, allora così col cancello non escono più. E infatti vedo che hanno messo un cancello che si apre in modo abbastanza sicuro, si apre e si richiude in modo che le persone non facciano uscire i conigli. Anche perché venivano i cani, non succedeva niente, però per evitare. Gli abitanti della zona portano qualcosa ai conigli, lei cosa ha portato oggi? Io porto sempre l'insalata. E loro sembrano gradire molto. Insalata si sa, insalata e carote. Anche la cacia, però pure la cacia. Anche la cacia. Chi l'ha portata la cacia? Un altro signore gli ha portato tutte le sere. Quindi hanno portato dei rametti da cacia e io ho portato un po' di. Sì, è vero, stanno proprio mangiando di gusto i rametti da cacia. Io ho portato un po' di carote e un po' di insalata. E effettivamente l'insalata è stata presa d'assalto, anche il sacchetto delle carote è stato preso d'assalto perché lo hanno fiutato, che era interessante. Comunque i conigli, a parte un po' di battaglie per l'appropriazione del cibo, però sembrano messi bene, insomma, non è che sono denutriti. 7-8 adesso sono diventati tanti. Il problema è che aumentano a dismisura, quindi c'è il rischio che magari poi il comune decida di sfoltirli e chissà come. Speriamo di no. Perché hanno fatto anche il cancello, il coso, quindi... Quindi se ne occupano, poi forse i cittadini a questo punto si sono coinvolti, si sono affezionati, quindi magari impediranno che possa succedergli qualcosa. C'è una bambina, c'è una famiglia con bambini che è venuta a fare foto, filmati. Vengono 7-8 lì, è pieno di bambini. A me gli piacciono i bambini. Anche perché sono socievoli, non è sì, che... sono animali buonissimi, socievoli, che non fanno male a nessuno. Sono abituati a stare qua a gente, quindi sanno che li portiamo da mangiare, non veniamo più per prendere. Certo, quindi. Certo. Sanno che l'uomo gli porta qualcosa di interessante. Da mangiare. Non viene qui per prendere. Un angolo di paradiso, un angolo vergine, incontaminato, in cui i conigli possono vivere liberi, quando di solito finiscono nei piatti i conigli, oppure vivono la loro vita in degli orrendi stabbioli, in delle piccole gabbie. Baruffe. Qui ci sono piccole baruffe tra loro, per l'appropriazione del cibo, anche loro hanno le loro gerarchie. Quindi per chiunque volesse venire a vedere il giardino dei conigli, via Tiberio Imperatore. All'altezza del civico 15. All'altezza del civico 15. Lei si chiama? Claudio. Vale la pena spendere ancora due parole sulla nostra prima produzione video, PD, Proteine Disumane. E questo è il titolo del video che abbiamo presentato giovedì 27 settembre e che letteralmente spopola in rete, nel nostro blog e su YouTube. Spopola per noi significa che ha avuto diverse centinaia di accessi, ma non è poco. E il merito di questa faticaccia è tutto di Elisa, che ringraziamo per aver investito così tante ore, così tanta attenzione e fatica in questo progetto. Grazie, non oso chiedere se visiterà la prossima festa del PD. Le fotografie mostrate in quel video sono state scattate alla festa del PD di Firenze. Abbiamo analizzato la proposta gastronomica della festa con occhio animalista, antispecista, vegan, ma anche semplicemente ambientalista. e abbiamo notato che questa riproduceva l'entusiasmo conservatore, tradizionale, popolare e conformista della grigliata spensierata, come se certi collegamenti tra consumi, tragedie ambientali, sociali, salute umana e dilemmi etici non fossero stati ancora sufficientemente enunciati. Intento del video è quello di invitare quel che resta del grande partito a connettere le pratiche con le buone intenzioni. Diversamente mi risulta che sia andato alla festa dell'Ampi di Varese. Sì, a Varese la festa dell'Ampi aveva una scelta vegetariana e vegana, oltre a quella tradizionale, mostrando quindi anche lì un segno di maturazione maggiore di quello del PD fiorentino, anche se l'esperienza migliore che mi sia dato di conoscere rispetto all'alimentazione in appuntamenti politici è quella del Movimento per la Decrescita, che ha tenuto una conferenza internazionale a Venezia a settembre, dove era previsto solo menù vegetariano e vegano. Accogliamo con favore anche la decisione di Sinistra e Libertà, che alla sua festa provinciale di Firenze ha presentato tutte le sere anche un'alternativa vegana e una sera un menù totalmente vegano. È un primo passo per un partito. Tu ci sei stata, Elisa, alla cena vegana? Sì, sono stata sia una sera normale che alla sera vegana, ed effettivamente devo dire che i piatti preparati erano veramente molto buoni. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Dopo il successo della Veg Pyramid, che propone linee guida per l'alimentazione vegana schematizzate e rese di facile consultazione e applicazione, è la volta della Veg Pyramid Junior. Infatti è uscito da poco il libro Veg Pyramid Junior, la dieta vegetariana per i bambini e gli adolescenti. Ne parliamo con il professor Leonardo Pinelli, che è uno tra i curatori. Passiamo a un pregiudizio comune: l'alimentazione vegana e vegetariana per i bambini è possibile? Certo, non solo è possibile, è assolutamente indicata in base alle cose che sono emerse in questi ultimi anni a livello salute dei bambini e a livello di ambiente. Quindi le società scientifiche promuovono questa alimentazione, sia l'American Academy of Pediatrics dal 77 e l'American Dietetic Association dal 2009, che dice che questa alimentazione, anche vegana, se ben pianificata, è assolutamente sicura in tutte le fasi della vita dell'uomo: gravidanza, allattamento, primo anno, bambino, età prescolare, scolare, adolescente, adulto e atleta. I bambini però hanno delle esigenze particolari, non sono dei piccoli adulti. Quali sono gli errori più diffusi e le avvertenze a cui i genitori devono fare particolarmente caso? Intanto l'esagerazione della fibra nel primo anno di vita. Il latte materno non contiene fibra ed è l'alimento principe quantomeno nel primo anno di vita. Si può continuare a allattare anche per un paio d'anni. E poi anche bisogna stare attenti a dare un pochino più di proteine del necessario, anche se oggi i bambini onnivori mangiano 3-4 volte più proteine di quello che, diciamo, è normale mangiare. Però, diciamo, il bambino vegetariano deve assumere un po' più di proteine, un 20% in più dei livelli indicati, non di quelli dell'abuso di oggi. C'è poi lo spauracchio della B12, che è considerata dai carnivori l'esempio del fatto che la dieta vegana non sarebbe naturale. È necessario integrare, perché? Ma a parte che i carnivori sono carenti di B12, perché la B12 viene prodotta nell'intestino da batteri, e quindi questi batteri, se agli animali di allevamento gli danno antibiotici, non ce li hanno, quindi non sintetizzano B12. L'integrazione con B12 che danno all'animale è insufficiente, e quindi anche i carnivori ovivori o lattiveri ne assumono poco, quindi c'è una carenza. La B12 è fondamentale, una volta veniva prodotta anche dall'intestino dell'uomo per la presenza di colonie di batteri che oggi sono tutto ridottissime, perché c'è tutto germ free, tutto sterile, tutto, ed è questo un guaio. Ci vorrebbe un po' meno pulizia, tra virgolette, perché i batteri sono considerati oggi, con l'intestino, il secondo organo per importanza. Il primo è il cuore e il secondo è l'intestino con i suoi batteri buoni, per quanto sono fondamentali, e i bambini oggi ne hanno molto poco. Il libro Veg Pyramid Junior è molto accurato e da lì emerge la necessità di una particolare cura nell'alimentazione dei bambini. Questa cura è necessaria solo per i bimbi vegani o vegetariani, oppure in generale per tutti i bambini? Bella domanda. la pianificazione dell'alimentazione è indispensabile per tutti, bambini, adulti, anziani, atleti, eccetera. Purtroppo non c'è pianificazione, perché? Perché la classe medica oggi non è formata. Io ho insegnato per 20 anni all'Università di Verona nutrizione, e le ore dedicate alla nutrizione in 6 anni di corso di laurea in medicina erano 15, quindi praticamente niente. Il medico, quando esce, almeno che non si specializzi in quel settore, conosce poco la nutrizione, quindi non pianifica, non dà degli indirizzi, perché si basa su dei miti, delle abitudini, insomma, che in genere possono essere anche sbagliate, e soprattutto molto influenzati dai giornali, dalla televisione, dietro i quali c'è l'industria alimentare. Dalla VEC Pyramid Junior di Leonardo Pinelli, Ilaria Fasan e Luciana Baroni, edizioni Sonda, leggiamo un brano della prefazione a cura della nutrizionista Medina Vesanto. Penso sia davvero folle l'allarmismo che leggo esserci in Italia nei confronti delle diete vegan per i bambini. Abbiamo oggi a disposizione una ricca ricerca scientifica in questo campo, che ha inequivocabilmente stabilito come si tratta di una corretta scelta dietetica, che permette ai bambini di crescere sani e che li protegge nei confronti di alcune malattie frequenti nell'adulto, come obesità, malattie cardiovascolari, diabete e alcuni tipi di tumore. Un appuntamento da non perdere è venerdì 12 ottobre a Firenze, al Polo delle Scienze Sociali, nell'edificio D6, nella zona di Novoli, in via delle Pandette numero 9. Progetto Vivere Vegan ha organizzato una conferenza di Gary Jourovsky, giornalista e attivista molto famoso a livello internazionale per le sue efficaci conferenze sul veganismo. Si dice che sia riuscito a convertire a questo tipo di alimentazione, di stile di vita, di visione del mondo, migliaia e migliaia di persone. Chi lo dice? Corre voce. Fama est. Comunicazione importantissima, sono aperte le prenotazioni per prendere il pullman che si recherà il 20 ottobre al corteo nazionale, la grande manifestazione contro Harlan e la vivisezione. Dopo l'entusiasmo e i successi di Green Hill, di nuovo una manifestazione contro lo specismo, per la liberazione animale, contro la vivisezione, per farla finita con queste multinazionali, della vergogna, della sofferenza, contro una pratica che di scientifico non ha niente come quella della vivisezione. Il pullman farà delle fermate ad Arezzo, a Montevarchi e a Firenze. Potete prenotarvi, il costo del viaggio andata e ritorno sono 24 euro a persona. Basta mandare una mail a gat.pullmandellaliberazione@hotmail.it. GAT sta per Gruppo Antispecista Toscano. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti, il podcast di questa e di tutte le nostre precedenti trasmissioni nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. E non dimenticatevi l'imperdibile, ironico, esilarante video PD, proteine disumane. Per qualunque comunicazione in tema, restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su Controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.